ragioni per cui occorre odiare e abbandonare il peccato. Ho letto un articolo dove venivano messe in evidenza ed elencate le conseguenze del peccato. A colpirmi in questo elenco era la dimenticanza di una conseguenza che a mio avviso è fondamentale. L'articolista ha messo in evidenza che il peccato rattrista Dio, affligge chi teme Dio, fa gioire i nemici di Dio, incoraggia altri a peccare, trascina noi stessi a peccare maggiormente, provoca la punizione da parte di Dio, per di più il tempo impiegato a peccare è tempo perso, col tempo appesantirà il cuore di chi ne cade preda, induce a fare ciò che non si vorrebbe, degrada chi lo commette, toglie i premi divini promessi, spesso le sue conseguenze ricadono su altri, oltre a ciò, esso inganna, squalifica per i compiti spirituali, inoltre confessare di averlo fatto è doloroso per quanto possa apparire piacevole nel peccare e seguire Dio con tutto il cuore. Dio non ascolta le preghiere di chi è abituato al peccato. Esso distrugge anche la buona reputazione, la stima e la fiducia, indebolisce la testimonianza, distrugge una vita, ferisce lo spirito e il corpo, contamina il servizio a Dio. Le conseguenze del peccato poi non portano nessuna gioia, il peccato è adulterio con il mondo, non permette di esprimere l'amore per Gesù. L'elenco potrebbe continuare. Cosa aveva dimenticato l'articolista? A mio avviso un vecchio avvertimento che non bisogna affatto trascurare. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro l'Eterno, e state pur certi che il vostro peccato vi ritroverà. Numeri 32, 23. Questo avvertimento, unico nel suo genere, è rivolto da Mosè alle tribù di Ruben, di Gad, e alla mezza tribù di Manasse. Essi avevano chiesto di rimanere dalla parte orientale del fiume. Giordano e Mosè era preoccupato perché tale richiesta poteva scoraggiare le altre tribù a proseguire la conquista della terra promessa. Se tale richiesta fosse pervenuta da un movente malvagio, Mosè li avvertiva che il loro peccato li avrebbe ritrovati o raggiunti, come afferma un'altra versione. L'atteggiamento di Mosè è più che giusto perché nessuno di noi conosce il vero motivo per cui le persone prendono delle decisioni, però è anche saggio avvertire il prossimo che, se il movente non è sano, prima o poi ne porteranno delle conseguenze. Il nostro movente, prima o poi, verrà scoperto. Nell'avvertimento di Mosè è nascosto o messo in evidenza, secondo i punti di vista, un principio del peccato, valido per sempre. Perciò è saggio riflettere seriamente sulle ragioni per cui occorre odiare e abbandonare il peccato. Come il principio del peccato è la separazione da Dio, così, prima o poi, il principio nei confronti di chi pecca sono le conseguenze da esso derivanti e dalle quali nessuno può sfuggire se non per una precisa volontà di Dio stesso. Come il fegato, un dottore mi disse che perdona tutto ma non dimentica nulla. Secondo la scrittura, è peccato tanto l'atto volontario come quello involontario, per cui le conseguenze sono uguali. Le conseguenze del peccato non hanno a che fare con l'intenzione, ma con la disubbidienza alle leggi di Dio e all'armonia della vita. Se tocco per errore un ferro rovente, mi brucio. Se offendo pur senza volere una persona, questa resta offesa comunque. Prendiamo in esame alcuni esempi di come il peccato ha ritrovato il peccatore o gli si è rivoltato contro. 1. Adamo ed Eva. La loro disubbidienza si è trasmessa a tutta la razza. 2. Abramo doveva aspettare l'adempimento della promessa di un figlio. Andò da Agar e nacque Ismaele, il capostipite dei palestinesi. Le conseguenze furono catastrofiche. Ancora oggi, giudei e palestinesi sono in guerra. 3. Davide tramò un omicidio e peccò di adulterio. Più tardi, i suoi figli commisero peccati sessuali e omicidi. 4. Saul, disubbidendo all'ordine dell'Eterno, risparmia gli Amalechiti e muore per mano di uno di essi. 5. Joab uccide Abner e Amasa in tempo di pace e muore di spada, seppur invocasse misericordia. 6. Un mio collega voleva denunciarmi perché sua moglie aveva posto fede in Cristo mediante la mia testimonianza, ma al suo funerale sono stato invitato dalla sua seconda moglie a parlare dell'Evangelo. 7. Una ragazza, figlia di un predicatore che insegnava la castità prima del matrimonio alla sua cerimonia. In seguito il marito l'ha lasciata con un figlio. Anche la legge del peccato, come tutte le leggi, non fa favoritismi o parzialità. Ci sono tristi episodi nella vita e, a volte, orribili, apparentemente privi di senso, ma in qualche caso, ribadisco, solo meno, in qualche caso meno successivamente si viene a conoscenza di precedenti intrighi satanici e trame ordite per compiere del male al prossimo. Il dolore e la sventura per il prossimo fanno sempre effetto sui nostri sentimenti, ma quando si viene a sapere che certe sciagure gli autori se le sono cercate, allora la nostra mente va all'avvertimento di Mosè: il male ha ritrovato chi lo ha compiuto. Desidero chiarire cosa intendo per peccato. Senza ombra di dubbio, come è scritto nella parola di Dio, il peccato è la trasgressione alla legge divina, ma mi riferisco anche a tutte quelle trasgressioni esistenti nel campo della morale, senza che per questo siano una evidente trasgressione alla legge di Dio. Inoltre, anche a tutto ciò che è disarmonia con la vita. Lavarsi la testa e andare a letto con i capelli bagnati, come fanno tante ragazze, non è proibito dalla Bibbia, ma poiché la testimonianza di molti dottori e di donne adulte è che l'umidità al capo procura reumatismi e dolori al collo, è veramente da sciocchi non ubbidire a chi consiglia di dormire con i capelli asciutti. E se qualche ragazza non vuole ubbidire, sappia che il suo peccato o la sua trasgressione a una regola che porta armonia nella vita lo ritroverà, con dolori alla nuca e al collo. Così è per i giovani che vanno in motorino senza camicia. Prima o poi avranno dolori di vario genere. Forse una mia esperienza spiega bene come il peccato ci ritrova. Quando ho reso la mia vita a Cristo, ho iniziato ad annunziare il Vangelo, e mi bastavano 3 versetti a memoria per parlare anche un'ora. Poi mi resi conto dell'impossibilità di ricordare sempre tutto ciò che Dio mi rivelava. Così ho iniziato a scriverlo su un foglio di carta. In quel periodo mia moglie era dattilografa in un ufficio e mi innamorai della bella scrittura. Decisi di imparare a scrivere a macchina e guarda caso lessi su un periodico dell'esistenza di un corso per battere a macchina senza guardare la tastiera. Nell'incoraggiare tutti a fare questo corso, la notizia era correlata da una nota molto importante. Per imparare bene bisognava tassativamente imparare l'esatta posizione di 2 lettere dell'alfabeto per volta. E solo dopo aver battuto le lettere memorizzate in modo perfetto su un foglio da macchina, se ne poteva imparare un'altra coppia. Capito come funzionava il lavoro, imparai da solo, applicando fedelmente i suggerimenti letti. Giunse però il giorno, continuando a inciampare sempre nella stessa lettera che ero impedito a scrivere in modo perfetto e, ormai stanco del mio errore di battitura, lo tollerai. Ebbene, anche oggi, nello scrivere a macchina, continuo a battere malamente quel tasto. Ho voluto trasgredire a un principio morale e a un principio del corso, ho permesso a me stesso una debolezza. Ma il mio peccato meno, cioè la trasgressione meno, mi ha ritrovato. Questo è ciò che intendo per peccato. Ogni trasgressione a ciò che è giusto in ogni ambito umano divino produce una disarmonia nella vita. È evidente che più grande la trasgressione, più gravi sono le conseguenze. Ho messo in evidenza una ragione per cui è saggio odiare e abbandonare il peccato, cioè tutto ciò che Dio disapprova. Ma ho presentato una ragione che proviene da un aspetto egoistico, per quanto a volte è bene considerare il peccato anche da questo punto di vista, dato che Dio stesso, nelle sue leggi, quando ordina agli uomini di comportarsi in un certo modo, fa presente anche l'interesse individuale che ne deriva. Certo, Dio non ha bisogno di ricordare la convenienza come fanno i genitori deboli incapaci di farsi ubbidire dai figli, ma se Dio usa questo metodo con la sua creatura, è solo per incitarlo, se non ubbidisce convinto di fare la cosa giusta, almeno a farlo in virtù delle inevitabili conseguenze negative della sua disubbidienza. E questo fa paura. E la paura, si sa, spesso ci rende migliori. Se non si prospettassero delle multe per chi trasgredisce il codice stradale, sono sicurissimo che molti automobilisti non osserverebbero in modo ligio le regole. Uno di questi, molto probabilmente, sarei anch'io. Perciò l'ideale per compiere la volontà di Dio e la ragione fondamentale per cui è saggio odiare e abbandonare il peccato non dovrebbe essere la paura, ma l'amore e la riconoscenza. Però questa conclusione ha un difetto. Vale solo per chi ha posto una reale fede salvifica in Cristo. È evidente che chi non vuole saperne di Dio e di Cristo non vuole neppure saperne delle sue leggi, per cui essere mossi dall'amore e la riconoscenza nell'odiare e abbandonare il peccato è possibile solo per il credente. Infatti è proprio al credente in Cristo che è rivolta la legge di Dio. Quando Gesù ordinò di amare il prossimo, di pregare per i propri nemici, di fare del bene a coloro che ci odiano, si rivolse proprio ai suoi seguaci, non a tutto il mondo o agli increduli. È come ordinare a un figlio qualsiasi di tornare a casa ad una data ora, perché è ora di cena. Un ordine del genere ha senso se è rivolto a mio figlio, ma i figli degli altri ne sono esenti. Così, poiché nel mondo ci sono solo due famiglie, quella di Dio e quella del diavolo, cioè i figli di Dio e i figli del diavolo, 1 Giovanni 3.10, allora gli avvertimenti in merito al peccato e la risposta d'amore nei confronti di Dio valgono solo per coloro che sono figli di Dio mediante una nuova nascita. Nella lettera agli Ebrei leggiamo: perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ebrei 12.2-8-29 è la gratitudine a renderci idonei a servire Dio in modo conveniente, non la paura. Certo, occorre una gratitudine unita al timore di un Dio che condanna, ma le conseguenze del peccato non avranno l'effetto di impedire al cristiano di correre con perseveranza la gara che gli è stata proposta. Ebrei 12.1. Aprile 2011. Ellero.